Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. 111 miliardi di dollari, a tanto è arrivato l'entità delle transazioni riconducibili al cosiddetto peer-to-peer lending l'anno scorso. Che cos'è il peer-to-peer lending? Parliamo del prestito peer-to-peer, quindi un prestito personale che viene intermediato da delle piattaforme che fanno un po' da garanti, consentono di distribuire il rischio. Insomma, una alternativa al prestito bancario che sta crescendo molto rapidamente, soprattutto in Inghilterra, che è dove questa pratica del peer-to-peer lending è nata, ma ancora di più in paesi come la Cina, sta crescendo rapidamente anche negli Stati Uniti. E allora continuiamo la nostra conversazione con Francesco Sacco, che è docente di economia all'Insubria di Varese e alla Bocconi a Milano e membro del tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale della Presidenza del Consiglio. Bentornato Sacco. Buonasera. Allora, parliamo di rischio di questa pratica, in Italia ancora poco diffusa, vedremo poi i numeri, del peer-to-peer lending. Allora, il livello di rischio è più alto, come viene gestito il rischio? Allora, il rischio dal punto di vista di chi presta è inferiore. La media in Italia è del 2,5% in termini di insolvenza contro una media delle famiglie presso le banche tradizionali tra il 7 e l'8%. Inoltre, da un po' anche in Italia ci sono dei fondi per la protezione delle insolvenze. Viene trattenuto, per esempio, un 2% circa dei prestiti che vengono erogati per coprire, in caso di insolvenza, il danno. In più, queste piattaforme, dal punto di vista di chi investe, si occupano loro di fare il recupero dei crediti al posto del singolo, quindi viene tolta un'incombenza che dura, difficile, costosa e anche penosa. Di per sé la solidità delle banche abbiamo capito che non è così assicurata. Diciamo, c'è un rischio sistemico di qualche tipo legato a queste piattaforme di prestito peer-to-peer? Innanzitutto sono in Italia molto regolamentate, per cui Banca d'Italia le autorizza come intermediari dei pagamenti, ma le sorveglia anche, per cui in sé non ce ne sono. Queste le ha un po' limitate e rallentate nella fase iniziale, ma a lungo termine sarà sicuramente un fattore di tranquillizzazione del mercato. E perché non c'è rischio sistemico? Perché non prendono posizioni in bilancio. Di fatto i prestiti che vengono erogati con i soldi dei privati utilizzando l'intermediazione della piattaforma. Quindi il vero rischio dell'intermediario della piattaforma è un rischio reputazionale. Possiamo dire che in pratica è come se fosse una banca che ha un fattore di leva 1-1, per cui lo spauracchio di tutte le banche, che un po' di gente si presenta allo sportello a ritirare i soldi, tra virgolette, non può succedere. Quindi da questo punto di vista il rischio sistemico è escluso. Totalmente escluso, anzi è un fattore di diminuzione del rischio sistemico, perché in questo modo circolano più soldi nell'economia, ma per quell'infusione di liquidità che è data all'economia, il rischio di credito nel sistema non cambia, anzi si diluisce. Si diluisce nella forma più ampia possibile. Sì. Ecco, quali sono le conseguenze sul sistema bancario del diffondersi di questo tipo di attività, insomma? Goldman Sachs ha fatto uno studio in base al quale si evidenzia che se negli Stati Uniti andasse a regime, per come si sta sviluppando il peer-to-peer lending, l'impatto tutto sommato non sarebbe drammatico per le banche americane. Perderebbero circa 11 miliardi di profitto, ma se teniamo conto che globalmente nel 2014, è stato un anno record da una ricerca di McKinsey, viene fuori che i profitti globali delle banche sono stati 1 trilione, direi che è poca roba. Direi anch'io. Beh, ecco, saranno uberizzate le banche o diventeranno più peer-to-peer? Ci sarà una concorrenza? Le prime reazioni sono state le più varie, per cui alcune banche tipo HSBC hanno cambiato le proprie policy di prestiti alle piccole e medie imprese. Altre banche, dico Goldman Sachs per esempio, hanno deciso di far partire un proprio business di prestiti online. Altre banche ancora, tipo Credit Suisse o JP Morgan, hanno investito in società che fanno peer-to-peer lending. Altre banche ancora, tipo Citibank, hanno deciso invece di investire in prestiti che vengono offerti dai peer-to-peer lending, perché comunque è un asset class molto interessante da un punto di vista di rischio e rendimento. Dunque, veniamo all'Italia. Intanto ci fu uno stop in Italia dal 2009 al 2012, non so se ci riesci a ricordare perché, cos'era successo? Fu bloccato per ragioni soprattutto regolamentari, non era regolamentato, poi è partito invece nel 2012 con un'impostazione diversa e in modo regolamentato. Sì, comunque non ci furono truffe di mezzo, diciamo che le banche si preoccuparono anche un pochettino, cercarono di mettere un po' i bastoni fra le ruote. Sta di fatto che questa vicenda si è conclusa e adesso il peer-to-peer lending è tornato praticabile in Italia. Quali sono i numeri? In Italia sta crescendo molto velocemente. L'azienda più grossa che c'è nel settore è Smartica, che ha all'incirca 6.000 prestatori. Ha erogato prestiti per circa 20 milioni di euro e ne ha erogati quasi 4.000. Il vero freno non è la richiesta di soldi, come si può benissimo immaginare, piuttosto l'offerta di soldi, che è ancora poco conosciuta come forma di investimento. Va bene, grazie Francesco Sacco e arrivederci, perché già abbiamo un altro tema in caldo che riguarda delle fatture, poi spiegheremo. Buonasera a tutti, a presto.